Mica piango, fallo tu. Se sbaglio pago, ma lo rifaccio a loop. Quando svago so che sbaglio, perdo, non chiedo scusa. Ma se cado mi alzo e guardo dall'alto chi mi usa. Mica piango, fallo tu. Se sbaglio pago, ma lo rifaccio a loop. Quando svago so che sbaglio, perdo, non chiedo scusa. Ma se cado mi alzo e guardo dall'alto chi mi usa. Mica piango, fallo tu. Se sbaglio pago, ma lo rifaccio a loop. Dico sincer, mille sottili tormenti platea. Io odio sto scel, con un tuo limite pare mi crea. È fitta sui monti, negli soffitti di un'altra atmosfera. Argini inutili, riempiamo stanze. Quando mi fissi io è messa in apnea. Non so che sono così quando rischio. E ti un fuoro che c'è dentro mu. Dentro una mano, la mano che ho. Fissiamo chiaro dentro tornato. Scegli quale parte prendo, io convivo con la ora in bocca, mi che penso. Sciocco tutto il mio dolore che busta sul C. Li lo spizzo tutta solamente li soprendo. Ehi, guardo dritto e lo patisco. Mille fasi in testa, un click non l'ho descritto. Siamo in un acquario, ho visto ma è finto. Come se cercassi luce in un abisso. Connessioni intermittenza, aspetto un intro. Cose che la mente mi ha sembrato un circo. Scegli di farmi male, io mi fermo. Come se cercassi amore, ora disco. Quando svago so che sbaglio, perdo, non chiedo scusa. Ma se cado mi alzo e guardo dall'alto chi mi usa. Mica piango, fallo tu. Se sbaglio pago, ma lo rifaccio a loop. Quando svago so che sbaglio, perdo, non chiedo scusa. Ma se cado mi alzo e guardo dall'alto chi mi usa. Mica piango, fallo tu. Se sbaglio pago, ma lo rifaccio a loop. Tu, nel loop, dove tutto cambia ma in parte. Tu, sei più, qui giuro ma sembri distante. Non so come l'infamia che pensano ad altre, yeah. Nel cuore c'ho la mia che sempre di fronte. Chiude il selfie che tanto non servono. No, no, dici peggio che così mi perdo. Ma no, no, io me stesso l'ho trovato immerso in un buio altro che hai chiesto chi non se l'è chiesto. Oh no no no, non ho bisogno di Alice e cadrò, yeah. È che perfetto io non ci credo. Penso spesso che a volte son certo che tutto cambia il tempo. Ma chi l'ho concesso da solo oggi non cerchi. Passi due scommesso lì contro tra che destro che in fondo ho già perso. Oh. Mica piango, fallo tu. Se sbaglio pago, ma lo rifaccio a loop. Quando svago so che sbaglio, perdo, non chiedo scusa. Ma se cado mi alzo e guardo dall'alto.